momento di disorientamento. Che cos'è? Non so il perché. Nello specchio che spavento riflette il male dentro me. Cerco aiuto e qualcosa a cui aggrapparmi. Mi tira il mondo dietro sé. Non so se urlare o odiarmi. Perché oggi è un giorno fuori di me. Oggi è un giorno che non c'è. Oggi è un giorno fuori di me. Entro ed esco fuori di me. Faccio una doccia e non sono pulito. Se mi diverto finirà. Mi guardo in faccia e sembro un fallito. Ma questa storia così non va. Oggi è una macchina senza freni. Corre, investe i giorni più sereni. Perché oggi è un giorno fuori di me. Oggi è un giorno che non c'è. Oggi è un giorno fuori di me. Entro ed esco fuori di me. Perché oggi è un giorno fuori di me. Oggi è un giorno che non c'è. Oggi è un giorno fuori di me. Qua sotto sono arrivato fin qua. Le somme ormai le ho tirate. Fatemi uscire di qua. Perché oggi è un giorno fuori di me. Oggi è un giorno che non c'è. Oggi è un giorno fuori di me, entro ed esco fuori di me. Perché oggi è un giorno fuori di me. Oggi è un giorno che non c'è. Oggi è un giorno.